il mio minore di chi. Però non mi ha mai creato problemi, quindi non mi posso lamentare, non ti posso dire che è un alimentatore che non serve, io ce l'ho un sacco di anni, la verità no, non mi ha mai creato problemi, l'amperaggio è sempre quello, il voltaggio è quello, io ce l'ho regolato a 13,8, su qualche radio, ad esempio sui baracchini lo metto a 13, però sugli HF è sempre a 13,8, e ha funzionato sempre bene, capito? Quindi può darsi, come te diceva Massimiliano, che ci sia qualche cosa in perdita, capito? Qualche condensatore in perdita, qualcosa in perdita. Non lo so, però io li ho attaccati sugli anziani, gli altri alimentatori si attaccati già lì, gli altri due sono a 2,20. Il 2009 che si è attaccato a un altro da 20 ampere e va benissimo, non so cosa sia successo, perché questo qui dall'inizio entrava in protezione, si attaccava in femmine gli apparecchi, se li lasciavi accesi, poi attaccavi l'alimentatore, entrava in protezione e si spegneva, dovevi rispegnere e poi aspettare che faceva così sempre. Poi riaccendevi e si riprendeva. Oh già, lascia la portata inserita un secondo. Adesso non so se sono io, però forse c'è una piccola alternata sotto. La ventola, sicuramente la ventola dell'alimentatore che c'è a fianco. Boh, prova, vediamo. Sembra un rumore di ventola. Sembra un rumore di ventola, comunque c'è un rumorino sotto, ma è impercepibile. Va bene, che va bene. E comunque, no, vabbè, io perché ce li ho tutti a 2,20, Gianni, i baracchini no, non ne voglio. Ne hanno. Vogliono fare anche cambi, non mi interessano i baracchini. Voglio baracchini base, 2,20 e basta. Solo baracchini base 220, perché sennò mi tocca mettere un altro alimentatore anche su questa base qui, su questa scrivania qui, no, non le voglio. Invece c'è un quadro che ho fatto fare dall'elettricista sotto la base, che non si vede neanche, con l'interruttore, tutte le prese sono attaccate lì, sollevo l'interruttore e si accendono tutte le radio, e sennò diventa un troiaio, non va bene, capito? Avanti Roberto. Ehi, ho una domanda a caso e poi un'osservazione a coso, a Gianni. Osservazione, un consiglio, dai, che mi hanno detto anche a me per quei problemi che c'ha lui. Quell'altro grosso che c'hai tu di amplificatore, quell'altro è la valvola, quello per le HF. Sì, quella valvola, quello c'ha due tubi, due valvole, 887, non mi ricordo, 878, una cosa del genere. Quello lì è, insomma, P&P dovrebbe essere intorno quasi a 2 kW, 1 kW e mezzo. Ma quello non l'hai mai provato? C'è un rischio a provarlo con un baracchino, diciamo? No, posso provare quello col baracchino, che ci vuole il cavo di commutazione per l'LC, quello è un HF, non è per la 27. Quello non ce li ha di 11 metri, c'è 10, 15, 20, 40 e 80. Ah, non è, cioè, commuti la banda, no? Pensavo fossero quelli larga banda che fanno da 0 a 30. No, questo è HF di vecchia generazione. Questo fa 10, 15, 20, 40 e 80, basta. E ci vuole il cavetto suo per poterlo far funzionare, capito? C'ha quattro attacchi dietro a occhiello e vanno poi con lo spinotto alla radio che lo devi usare. Io c'ho ancora quello per lo IAESU e quello per il 756, però siccome non c'ho né una né l'altra del radio non lo posso usare, capito? Ho capito. Poi volevo dare un consiglio, nel senso me l'ha dato a me a riguardo di quel problema di Gianni, se vuoi te lo comunico. Eccomi. Che è? Sì, è Roberto. Allora, mi ha detto un amico, un tecnico abbastanza preparato, allora quando ci sono quei problemi, hai avuto un rientro di radiofrequenza, mi ha detto, quando c'è questi problemi sugli alimentatori, che ti fa l'antenna, in parole povere, l'alimentatore ti prende un po' di radiofrequenza, per cui mi ha detto di utilizzare nel positivo e nel negativo, ci mettono due condensatori, motori a disco da 2 per 100 kilo picco, questi sono i valori, adesso te lo sto leggendo in diretta, e due induttanze da VK200, le metti due, collegate in serie al positivo e al negativo, il coso li metti in parallelo, vabbè, bisogna mandarti lo schema per vederlo, e ti elimina un sacco di problemi con questo discorso, c'è un rientro di radiofrequenza quando senti quello tra, perché con gli switch sono più, come si chiama, sentono di più quei problemi, magari con quelli al trasformatore non te ne accorgi, non te lo fa il problema, gli switching hanno questo difetto. Questo qui è il 6055, quello che sta usando Claudio, e a lui non gli sta dando il problema, io penso che sia perché me ne accorgo, lo sai quando, dopo che io passo i 100 watt, allora me lo fa, prima no, dopo comincia a fare tra così, questi rumori qua, e quando va le bande laterali sicuramente non ce la farà, perché lì pompa di più e quindi non ce la farà sicuramente. No, qua non c'entra l'assorbimento, non stiamo parlando di assorbimento, qua stiamo parlando di oriente e radiofrequenza, è un'altra cosa, perché l'alimentatore se c'ha, gli saranno 100 watt, quanto ti assorbe? Fai che assorba 15 ampere, tu ne hai 1,50, voglia ce l'hai di riserva di potenza, qua è rientro di radiofrequenza, ti sta rientrando all'interno del coso, ti sta facendo tipo un ricevitore, l'alimentatore sta ricevendo la radiofrequenza che sta emanando il coso, non ha una schermatura adeguata, magari con un altro alimentatore, con una schermatura migliore non te lo fa, quelli che hanno le cose blindate dentro, le schede blindate eccetera. Esatto, sì, è così, perché ho provato quello piccolo ma non mi piace, cioè quello piccolo non me lo fa, ho provato quello da 30 ampere e va bene, non dà nessun problema. Perché un 100 watt quanto ti assorbirà? Fai che ti assorbirà 14-15 ampere, ma esagerando. Io mi devo lasciare che il cane con la città di bisogno di fare i suoi bisogni là. Agappa, ci sentiamo dopo, casomai ci sentiamo se ci siete ancora, dai, per il momento vi saluto. Forse avete parlato in due, c'è Giacca, ciao. Avete parlato in due, comunque Gianni, ho capito, sta andando via, ciao, anche io sono stacco un attimino, forse Massimiliano stava parlando sotto di te, avanti Massimiliano. Sì, no, le stavo dicendo con poche parole, anche a me fa così, questa radio, se io non attacco a uno stabilizzato mi fa quel problema, mi fa quel tipo di alternato, invece attaccandola a uno stabilizzato, buono, il problema non lo fa più. Oltre a basta allontanargli un pochettino, mettergli uno schermo, qualcosa per isolarlo, che non li faccia fare antenna, le parole povere, il coperchio, e ti rientrano quei pochi milliwatt di coso, e disturbano i componenti che ci sono dentro. Vabbè signori, io devo lasciarvi adesso, devo fare cosa? Ciao Massimiliano, ciao Claudio, ciao Gianni, e poi non so chi ci sia qua sul canale 10, ci sentiamo un altro momento, ciao. Ciao Romero, ci sentiamo, avanti qua. Ciao Roberto, ciao anche a te Gianni, ce la risentiamo. Caparrogelo positivo, dai. Cappa, ma che te lo fa le senove a te quel difetto lì? Ehi, infatti io ce l'ho agganciato, l'ho stabilizzato quello, capito? E ho risolto il problema. Cappa. Anche questo c'è cioè, che è stato stabilizzato, per non ho voluto mettere quello là. Però già va, la verità. Come si chiama? Quello switching. Quello tira bene. Sì, Giovanni, Ruglia. Non ce n'è problema tu. Cappa. Eia, adesso sono con i watt della radio sono. Quando ti arrivo? Aspetta tu, perché non voglio che poi tu non mi creda. Quasi mai arrivi più forte così che con linearetto attaccato. Ok? Aspetta un secondo. No, non ti preoccupare Massimiliano, già ci credo. Vai, fai passaggio. 1, 2, 3, prova radio, te prova. Capo, almeno sento anche la modulazione, a vedere come esce. No, aspetta che ho sbagliato, aspetta un secondo. Sei qui io quando vai, Eia. Tu vai. 1, 2, 3, prova radio. E non faccio manco tutti i watt avvicini. Adesso lo proviamo anche con i watt tutti aperti. Guarda a vedere com'è Massimiliano con i watt tutti aperti. Ok, adesso ti mando il video, ok? Ok, allora mettiamo un po' così, se no, rumoso appena. Sono qua, scusate che stavo ordinando le pizze, se no poi non me le portano per l'ora di cena. Chi è entrato? Antonio c'è, non so se si vede bene, Antonio, boh, forse non si vede bene. Guardi il telefono, caro, ho mandato un coso, ci ho mandato poco fa, ma mezz'ora va. Ehi, Massimiliano, tu già sei abituato, il mio telefono è sempre così, mi va il revito, va. Infatti, sì, come non ti va il revito? Aspetta che me lo guardo. Ehi, e me l'hanno visto, l'hai? Ah, revito rotta e no. Eccolo. Ecco, guarda, quando stavi modulando eri così, poi aumentato il watt eri così. E poi guardati la foto di quando hai agganciato il lineare com'è. Minchia! Cabotiga! Allora, quando tu sei così a solo radio fai da 7 a picchi di 9. Quando agganci il lineare rimani a 9 pieno. E quando metti, senza agganciare il lineare, metti tutti i watt della radio al massimo, sei 9. Ma sei un pericolo mio. Ma Massimiliano, quello che hai mandato a me è del Magnum, cos'è il mio segnale? No, quello di Antonio ha agganciato. Aspetta. Sei un pericolo mio. Atta! Ma che c'è del guccia cosa, boh, perché l'ho attaccata a quello normale? Cosa si sente? Alimentatori su accendi. Ma mio? Il mio. Minchia, oh già ce la fa, perché è abbastanza forte. Ehi, cavallo. La bestia, Massimilia. Sì, Michelin, come ce l'hai? Sempre tutto aperto? Vabbè, quello del microfono ce l'ho a 9, ce l'ho. Se vuoi, aspetti. Ecco, così ho messo al massimo, com'è? No, troppo, tu. Guarda a vedere un po', va meglio? Ehi, secondo me lo puoi mettere anche a 8, che è meglio ancora. Ecco qua, adesso è a 8. Così va più bene, così. Minchia, che non è poco, mi, da temme. Non è poco, no. Vuol dire che la bambina funge. Tu, lì ci sono due cosettine da toccare lì dentro e vedrai come funge con la radio. Tu, se in San Radio la dai a Massimiliano, allora te lo do io lo segnali. Ho detto l'altro giorno, tu l'unico che puoi parlare di baracchini o modificati o no, che finali montano, che modifiche sono a fare Massimiliano. O Massimiliano o Gigi, perché loro sono quelli che maneggiano queste. Quando fa vedi con me, io non ne comprendo un accidente a tu. Che io voglio entrare, avanti. C'era qualcuno che voleva entrare. Avanti che vuole entrare. Ci vuole entrare, siamo qua. Gappa, positivo, dai. E io bene che arrivo lì, altro, quanto sono? A 6 volte già in occhi. A 7, ci arrivo, sì. Di più? Allora, va bene, visto. Va bene, non sei attaccato, passa alle 9:10, dai, neanche. Ma chi smetta, non ha il salario? Sì che ce l'ha, ma sei meno di 9, dai. Cioè, sei sul 9, se diciamo. Una cosa del genere. Ma cosa c'è? Gappa, già va bene, avanti qua. 20 in più arrivi in occhi. Ma un gioco qua c'è Biden, tu. Ma ci vediamo, 9 più 20, con picchi a 9:25 qua. Col baracchino mio, hai visto che è un baracchino serio, Ma io per quella zona sono blu, non capisco perché, sono un pochettino negativo. Non ci posso fare niente. Provo a aumentare il palo di un paio di metri a vedere se funziona la cosa. Ti ho mandato un audio, Massimiliano. Aspetta che lo controllo. Tanto aggiungici altri 2 metri di palo con l'antenna, vedrai come va. Ma che c'ho, perché non finisce tutto, lascio stare, non basta sopra. Se mai ti paro gli osso. Ma è doppio che fine ha fatto? A San Radua. Chiuso? Roberto lo stesso? Sì. Anche Roberto ha detto che chiudeva. No, io stanotte non devo cucinare niente. Mi hanno ordinato a fare le pizze per le 9:15, quindi dopo mi sistemo il cane, se non piove, adesso che arrivi tu. E su che andiamo. E voi potete andare a coccarvi pure. Vabbè. beh, flippe. Davvero? Ma allora tocca comprare il lineare, ho capito. Che gare ne avevi comprato? Ci lasci 9.30. Sì, ma siccome qua si fanno le gare a quanto pare, chi è più forte, boom, ma io sono piccolino, allora mi devo attrezzare. Perché c'è la fondo scala, sei quasi quanto originale il Claudio, un lavoro, no? Che... Allora anche io me lo compro, così imparate. Allora me lo prendo anche io, un altro. Allora io non ne posso prendere altro, perché questo costa già troppo. Ah, visione che è. Tutte ore CV qui, a me piace ascoltare anche alternate ogni tanto. Vero, ti. Io il crack. Quindi hai visto le prove che ho fatto con Massimiliano, con le Lea 1000? E ho visto tutto. Hai visto? Finalmente siamo arrivati a una svolta, dai. Almeno questi vintage camminano come dico io. Flipper, ma voi ci avevi comparato un lineare? Sì, 9.30, arrivi, canta arrivi in altri con un lineare. Che è, tabù, si attacco l'inverter attacco, che se funziona. Tu vai e sei zitto, sei in soffitta. Male, sto facendo male. Cupo, sì, tutto quanto, No, da me no, un pochino la modulazione è un pochino troppo compressa, ma abbastanza percepibile. E lui, siete attaccati voi. Da me sta andando la grande. Aspetta che cambio radio, avanti. No, no, ma questo è arrivato bene, sei 9.30. Mi sente bene questo. Ah, sono io, amico tuo. Quanto sta arrivando lì, non si mi dia a te? 30. Aspetta, va. Ma voi non erano i vendicari miei, sono proprio tecniche di trasmissione questa, flippers. Guarda questa, non si mi dia. Questo è un po' più basso, È più basso di segnale, ma di radio è più forte questo. Vedi, la radio diciamo non è segnale. Ho capito, ho capito. Questa è bella la radio. È bella come me. Allora. E con questo quanto arrivo, non si vede. Sei poco più di 15, dai. Questo vale di meno, Neanche a 100 arriva a questa porca miseria. Devo trovare qualcuno che spinga. Cappa, quello che c'aveva l'alternata ero io. E cosa si può fare? Mi ha dato tutto il coso, tutto il cuscimignato, non funzionava. E adesso abbiamo risolto. Sì, Antonio, non solo tu, dai. C'è anche un altro con una piccola alternata del sottofondo, no? Va bene comunque. Tu hai risolto. Cappa, ho risolto, abbiamo stabilito che era proprio il microfono che c'è qualcosa che non va. Ho messo questo in BB più 4 e funziona, va bene. Vabbè, flippe. Devo essere soffitto, attivo dopo con la fettatrice. Mi devo assentare un po'. Come devi assentare, che diverso. Cava, cava. Se non mi può fare il danno, la giù, devo fare soffitta là. Eia! Non sei già sopra. Sto cercando qualche volontario da smontarmi l'albero. Ma io che faremo? Se vuoi vengo io, c'ho il bruciatore, la bombola. Ma poi il prossimo anno non funziona così. Non hai alberi fuori gas. Gioco alberi a fare. È presente a ritirare. Ma non so. Ancora. Per non sbagliare non ho giù la tua. Ancora ti. Devo essere sincero, la voglia è poca e poi scarseggia. E la pappa non galleggia. Perché dice si toglie dopo l'epifania? Non fa come te mamma, Mamma la già vazia, adesso non ne fa più perché è anziana. Quando lo faceva, lo lasciava tutto l'anno, quando vedessi, lo spegneva tutto, per esempio non ne faceva, faceva solo l'albero, bello, bello. Li buonia uno di questi mucchi di Mondesa, mani e mani, niente, e li buonia l'elastico giù. Il prossimo anno ce l'ha pronto. Allora, ciao, ma va che lo smonti. Non ha giocato, no. Te lo smonti io, lascialo così. Cioè non si vede, pare un mobile, lascialo così. Non ci mettono le spedizioni dalla Cina a arrivare qua. A Luca, dillo. E se non mi vuoi farmi da Luca, cosa vuoi dire? Un mese. Quanto? Dai 20 a un mese. Cava, cava. Cosa ordiniamo, Massimiliano? Ordinando la Wish. No, ho preso una radio, dai, un privato. Però è cinese. Ho capito. No, la Cina ne arriva là. Non so quanto. Cazzo, mi è costato più in spedizione, cazzo, che la radio. Ma tu pensa che io, ma vabbè, c'è stata una. Me sono sbagliato perché dalla Germania ho preso una sedia game per mio figlio, è arrivata qua la GLS, era ferma qua la GLS, c'è stata una settimana ferma la GLS, l'hanno rimandata indietro, adesso me la devono rispedire. Sono forse dal 9 novembre che l'ho ordinata. Fate un conto. Io avevo ordinato quei cacciaviti, sai, quelli non induttivi, ma di plastica per toccare le primerine, quelle cose così. Non mi sono mai arrivati e alla fine mi hanno rimborsato. Però qua, vabbè, qua è già partito il pacco il 2 di gennaio. No, il 3, scusa. No, scusa, il 4 di gennaio è partito. E ancora, mi pare che ha fatto poca strada. Sono un po' incasinati con le spedizioni, ma adesso si dovrebbero stabilizzare perché l'afflusso è sempre nel giorno di festa, quindi va bene, dai, riprendi qua. Claudio è andato a portare il cane. Sicuramente. Qua è Momolo. Chiappa, ma si sta aumentando un sacco di gente con questa spedizione. Vedi che non arrivi la roba, non vedi cose strane. Da poco è successo anche a una persona in famiglia e gli hanno restituito i soldi. Antonio, questo Covid adesso è un macello. Lo so, è un macello sì. E non vedo niente che se la mi intende, beh. Oh, Lu, l'ho chiamato anche a Vittorio, perché mi ha detto che spedisce domani. Al limite domani le mando un messaggio a ver se spedisce. Non so perché l'ho sentito ieri, mi sembra, o avanti ieri. Ma è malato. Che? Che è malato. Oh, e ho già fatto male, già tizia. Magari mi do tutta la tua vita, cazzo, l'hai giunto anche il cuscio. Se la mangi diversamente da come la dovresti mangiare. Ma siccome gli ho mandato una bottiglia di vitto e una bottiglia di acqua vite anche, no? Assieme alla salsiccia, al formaggio. Ma vorrei se abbia bevuto tutta l'acqua vite. E cosa ti ha detto? Cosa c'ha? Che malattia c'ha? Covid. Emicrania, ma ti. Cazzo, allora fai la radio mia, vale emicrania. Lo Covid va. Lo Covid. Poi ha detto ti manda il vaccino dentro la radio. Quando arriva l'apri te lo fai. Ma la disinfetto tutta c'è la radio io quando arrivi, non so mai. C'è un coronavirus. Come mangiare, la faccio l'alcol spray, la dago in chivi, una ghetta, vedi che ribassa i macchini, non questo ghiacciaia che fai. È quello vaporetto, dico una sciocchizzata. Mica col freddo aumentano i germi. Ah così, allora metto in forno ti. No, non vedo era Massimiliano che è il bruciatore, così mi ha detto. Era da Massimiliano, adratta Edo. Scusa, ha passato il cannello. Attendi che qui è già tutto. Mi sente lui, è un professionista, Vittorio, e io vabbè mi crania, qualche mal di testa, secondo me l'ha fatto male l'acqua vite. Anche secondo me. Quando la stavo mettendo la bottiglia c'era Luvia come la vende male, mamma mia. Sei buona a me, appena appena. Ah no, non la sopporto tanto. Io figurati, da quanto non bevo più alcol. L'altro giorno mi chiedevo a Massimiliano, c'era un freddo allucinante, e ho preso una ciambuchina, mi viene i due cuditi, cioè mi viene il singhiozzo, capito? Addirittura. E che la boga. Infatti è che la boga. Ah, ecco. No, ne ho bevuto anche troppo, basta. Basta, già è piacevole dopo il caffè, un goccettino, una goccettina così, però secondo me te l'ha fatto male l'acqua vite. Ah, dove? Ma che l'acqua vite? L'emicrania faccio venire. Dolore di gabbo, l'emicrania è dolore di gabbo. Si chiama Geccio, me. Alla bui, la dia da bui. A Luca l'ha detto che va via l'emicrania, ma non dire va via un Geccio. E comunque fretta non ce n'è, quando la vuole spedire la spedisca, già ne ho radio, non ce n'è problema. Capito? L'ho detto non ne avevo fretta, ma ho detto no, te la faccio subito, te la spedisco, intanto c'è solo a fare l'allineamento e dare una controllatina generale, basta, non ce n'è componenti da cambiare, niente, perciò ha detto ma faceva subito, così ha detto, e così ti sto dicendo, poi se non la spedisce domani, pazienza. se la tiene, quando vuole la spedisce. Ecco, non so neanche se l'ha fatta, no, non ti stai sentendo tu. Io gli ho mandato un messaggio, te l'ho detto, mi pare te l'ho girati anche, non mi ricordo, se era arrivato il pacco, tutto integro, e lui mi ha detto, è arrivato tutto integro, e l'ho detto, speriamo sia arrivato giusto, che sia arrivato integro il mangereccio, e lui mi ha scritto, il mangereccio è arrivato integro, ma rimane integro per ancora ben poco. Ok, poi ci siamo sentiti al telefono e ho detto la radio l'hai vista, ma ha detto no no non l'ho vista, questo quando gli è arrivato il pacco, l'avvero dopo così te la faccio subito e lunedì te la spedisco, queste sono le sue parole. E che ne sai? Però ti ripeto, no, non ne ho fretta io, già ce le ho le radio, no, non mi manca la radio, quando me la vuole spedire me la spedisce, non è un problema. Avanti Massimiliano. E metti, l'hai visto il lineare nuovo? Funziona? Sì, l'ho visto, ho visto l'incremento e vabbè. Viaggia, viaggia. Cazzo, alla prima partenza vado da 9:15 subito, alla prima, ve ne ha 3:05. Viaggia, una bella bestiolina, sono contentissimo. L'LA 1000, bel lineare, costa un patrimonio sul lineare, ma comunque. Almeno fa tutto e non sto lì con questi cazzo di giocattoli. E oggi lo vendi, più basso il segnale però, va bene però, bello forte, io credo che è buono. Ehi ragazza, ci dobbiamo attrezzare, bisogna attrezzarsi per l'estate. Sì. Ma è basso segnale Massimiliano, dalle più vatti. Cazzo sei nuovi? Ho messo i 9:15. Ah, perché poi agganci il mostro. Ah vabbè. Lu, io non ho problemi a attrezzarmi. Io posso mica così, guarda, sentimi. Passa Massimiliano, me ne lascia uno e vado in 45 metri. Maello. L'ho usato, quanto l'ho usato uno tuo Massimiliano? Due stati. Una radio tua modificata, quanto ce l'avevo io qua? Due stati. Allora. Poi mi ha trovato l'amministratore un giorno, mi ha detto, senti qua, stavo già voi. Ma c'è il signor Pinna, mi pare, signor Secchi, no, signor Secchi. Quindi mi ha detto che ti sente nel computer, a me, ehi, a te, ehi. Con questo ecco, questo voce, ecco, questo, con la voce con l'ecco. Ammazza, gli ho detto. Non so, ma adesso verifico, dai. Andiamo da Massimiliano. Strappagliate la radio, sono quelli sul bendi. Hola, guarda un po', ho aumentato un pelino. Sì, adesso sei 9:20, di picco. Sì, anche a me, 9:20. La voglia, qualche qua. Perché disturba, capito? Io con quelle radio, per quello me le ho vendute. Ce n'avevo una, amica, mi ha venduto Massimiliano e... L'ho venduta anche di meno. Cazzo, il 3009 colpe, una bestia, una cosa allucinante questa radio, bellissima, tutta blu, ma anche il cambio canali blu, smitter, tutta illuminata, bellissima quella radio. Perché intanto non la posso usare, non le posso usare io baracchini colte qua. Ci sono impianti centralizzati, capito, mai entra qualche armonica, non voglio rotture di balle. Tu, se non vuoi disturbare, metto la pedivella adesso. Metti in moto e porti via. Sì, sono pedivella giù in moto, tanto che pedivella via, anche c'è Massimiliano. Ciu ciu. Massimiliano lo sento, dov'è Massimiliano? Oh, Sagnano ne hai, è Radio 1, dove sei? No, lo sento qua, Vabbè, arriva 9:20, qua manco arriva. Ma qua già arriva, già. Purtroppo da me non arriva, comunque ciao Tino, ciao Massimiliano, ciao Claudio, ciao Antonio. No, non arrivi da me, non so se mi ascolti tu, da me non sei bassissimo. Sì. Barighiddu, si va a sentire basso, quello di Cappuccini. Bella atmosfera, ciao Luca. Adesso non sei più cattivo, 9:20, adesso sei 9:15 di nuovo. Massimiliano. E tu Lulli, hai visto i miei incrementi con l'amplificatore quello grande? No, io no. Non hai visti? Vabbè, no, da te non fa testo, già c'ho segnale alto. No, da Luca Maicomio. Sì, non ho capito, dimmi. I miei incrementi li hai visti quando stavo usando l'amplificatore grande? No, negativo, non ci ho fatto caso qua. Perché mi sto vestendo e sto andando da due amici, dai, che ci hanno invitato. Vabbè, invitato Dio, quando fa una cosa, là. te e dopo ci riprendo a casa, se no ciao. Sì, la verità ti è uscita, stai andando a fare bisboccia, a mangiare la pizza e a fare bisboccia, io segno. Sai che tu bisboccia? Sì, sì, no, ti blocco già, ho già cenato qua. Ho mangiato una bistecca fatta in forno, mi sono bevuto mezzo bicchiere di spumante dolce, una mela e un arancio, boh, ho già cenato io. Andavè, fai bene, vai tranquillo. Tu, entro le 10 devi essere a casa. Cazzo, ma ehi a Guglia, sono 7:30. È lì vicino a casa stesso, cosa ci metto? No, dobbiamo fare una cosettina, dai, poi mi accompagni a casa. Vai che alle 8:30 sono già a casa. A frappi, ciao, riprendi qua, ciao. Ciao Luca, mi ascolti adesso? Adesso direi proprio di sì, Ma è positivo, dai, positivo. E adesso lo sai cosa faccio, domani la lascio accesa senza antenna, così la lascio il cavo agganciato e la lascio accesa tutto il giorno. Ah, dopo 38, capito, minchia. No, sono del radio. 9:38, vai. Sei quasi 9:30 qua, figurati, sono molto più distante da Tino. Ma perché di Tino là? Cappa, pure qua sei forte, la verità vai bene. Vabbè, qua è il più alto in assoluto, momentaneamente è Luca. Ehi, se no attacco io. Prova, vai che... No, non penso che ce la faccia a passarlo comunque. Perché fai incrementare tutto maletta. Ti hanno venuta? Ma io sono sganciato però. Sì, vabbè, quanto sei attaccato a Edo, già va bene. Sì, io Luglio. Appagappa. Già arrivate forti già tutti. Allora, in sesta marcia 600 Massimiliano, o 650, quanto ne dà? Una cosa del genere. Io non ci ho fatti, ma te non posso provare. Una bella bestia, questo ci vuoi dire a te, mi? Mandami foto, perché non so neanche cosa stai utilizzando. Praticamente fai da quasi 9, fai diciamo 9:18, da 9:18 a 9:38. Adesso ti mando la foto. Manca un pelino, arriverà a 40, che aiuto, offro per di più. Beh, adesso io mi alzo e vado a vedere se ci sono 40 piatti in altra avanti. Perché quanti siete? In 38? No, 41. mamma mia, ragazzo, guarda. Sono un mese senza lavorare a casa, sembra che siamo in pensione. Aspetta, a proposito, guarda che mi serve qualche operatore, non è che conosci qualcuno valido, se sei fermo, se vuoi venire, boh. Ma stavo a dire la prima, cazzo, boh. Così qualche giornata già fa. No, non è questione di giornata, è questione che se si assume fino alla fine, capito? Cioè non è che prende per 2 giorni, 3 giorni, non è roba, è una cosa che bisogna prendere fino alla fine e poi si vedrà. Oh, aspetti, mando un audio, te lo dico io a chi prendere. No, mi serve a tempo indeterminato, capito? Posso chiedere se c'è qualcuno fermo. Un operatore come si deve però, Guarda, leggiti il messaggio e guardati la foto. Ehi, ho sentito, però proprio questo come si mi va bene, dai, e poi ne parlerò, vediamo un po', se senti qualcuno già farò chiamare da lui. Ehi, non c'è problema, va bene. Noi siamo fermi per l'acqua, capito? Siamo in integrazione. Si è sempre vendeva in diari. Sì. Noi stiamo lavorando all'orto botanica, però dobbiamo lavorare a Perfugas. Però lì, se iniziamo, dobbiamo andare, finire, fare. Insomma, saranno circa 8-10 mesi di lavoro. Dopodiché altre cose, però quello è impegnativo, è quello, là, diciamo. Gava, chiedo, Tino, non ti do nessuna parola, sicura. Io lo sai che bravi stanno lavorando, quindi. Sì, sì, vabbè. Diciamo che lui sai come tutte le cose, no? Non è che vorrebbe un operatore massa, che sa per fare un po' di tutto, diciamo, dai, che collabori, tra virgolette. Vabbè, fammi sapere, dai, fai girare, sennò diventiamo. Ma lo prendiamo troppo, dai. Antonio, riprendi. Cosa ti? Mi guardo il messaggio. Perché è un bel lungo, eh. È un bel lungo, eh. Prende mezza scrivania. Mezza scrivania, questa è da 90, fate il conto. Mezza, non è che si veda molto comunque. Già è bello, molto bello. E ne scialene, ma ci vediamo, magna. E io mi adesso fra un po' porto il cane. E poi alle 9 meno un quarto arrivo alla Faini e ci mangiamo due bestie di Faini. No, io che arriva la pizza. Un pochettino di vino, no, forse un bicchiere di vino fresco che bevo, là. E me ne sto un po' giù allora, là, sono tutto così, ero un grampato. Ciao, vediamo. Andrà bene, là. Poi ti dico che cosa ho preso dalla Cina. Un affarone, va. Intende, già ce l'ho fatta a prenderlo là, è già in viaggio. Bene ragazzi, vi saluto, è stato bello e ci sentiamo alle prossime. La radio Bulldozer vi saluta, forti abbracci, ciao. Questo che non è il tuo, questo qua è Massimiliano. Che cosa? Con l'ampli? No, io ce l'ho uguale. No, perché l'avevo già visto, per quello che ti ho chiesto. Io ce l'ho preciso, identico, capito? No, intero mio, c'è il Massimiliano, c'è la scatola, c'è tutto, c'è il manuale. Però non l'ho provato perché mi ho venduto la T230, vabbè che intanto non serve. Adesso mi prendo un rosmetro wattmetro di quelli buoni, della Daiwa, come quello c'è Massimiliano, giusto per sapere, ma mi ha detto Massimiliano, intorno ai 600 watt in AM. In banda laterale l'ho provato, banda laterale... Col fischio arriva quasi a 9, sul parlato siamo intorno agli 800-850. Va bene, mi piace quello dell'RMI, però sinceramente non lo sono quasi per prendere, poi te la lascia perdere tanto. L'attività che c'è? Questo è RM Italy praticamente, costa un pochino di meno, però è RM Italy, è il winner questo, l'LA 1000, è sempre RM Italy, sempre quello lo fa, non è marcato RM Italy, ma è sempre qui, loro lo fanno. 747 lo fanno loro. Questo lo fanno loro, non è marcato RM Italy, è il winner, l'LA 1000, però sempre loro lo fanno. Sì. L'ultima versione del 747 in RM Italy lo fa. Vabbè, RM Italy costava molto di più, questo ho pagato qualcosa in meno, me l'ha consigliato Massimiliano e va bene, capito? Certo che va bene, una cannonata è anche una cannonata, sì. Già va bene, almeno non satura, non fa, è un lineare professionale, va bene. C'è il suo alimentatore a parte, va bene, gli ho messo l'alimentatore, unico, a posto, e funziona bene così. Avanti T, cosa stavi... Ah vabbè, già ho letto... già ho letto il messaggio, va. E allora, adesso hanno tre patenti e patentini. Vabbè, lascia perdere, va. No, serve una persona valida. E poi, come ha detto Massimiliano, quelli validi stanno già lavorando, già impegnati in tante altre cose. Bene, Meda. A proposito, a chi è che interessa qualche cuccio del pastore tedesco incrociato con un pitbull? Ah no, a me no. C'era Claudio di Porto Torres che stava cercando un cane per farle compagnia. Aspetta un attimo che mi guardo questa foto di Luca. No, sono belli, se vuoi ti mando le foto delle giri. Ma sta cercando uno piccolo lui. No, piccolo no, questo perché è un po' fresco, ma è piccolo. Questo lo devo dire, devo far vedere, è stato su piccolo. Ma faccio quello adesso che è piccolo, con la promessa che non cresce. E i dici questi rimangono così. Tipo peluche. Ma te ne immagini? No. Bianco per me che mi hanno portato la pizza. Andrà bene. Ciao, fai. Vabbè, ok. Poi Gianantonio, riserva, non ci ho fatto più sentire, ho provato a chiamarlo già un paio di volte, ma non mi ha risposto. No, ho più sentito. Allora è impegnato anche lui, aveva qualche lavoro in corso, quindi è impegnato e niente, sicuramente quando rientra non ne ha voglia. Torniamo a chiamare il microfono, a Giosetti, 8 ne ho adesso di MB più 4 e più 5, ogni tanto schiaccio uno che ci sono la, c'è la radio spenta. Questo quanto costa, Luca? Non lo va, se mi metto gli occhiali. Per la foto. Aspetti, vanno anche questi, Luca. 100 euro costa questo. Eia. Quello è come è quella c'è Massimiliano, stesso modello. Manda anche a me che lo voglio vedere. Ah, ora lo smetto qui. Ah, aspetta che ti vanno le foto. Io ho le foto, vuoi stare attento, perché ho la memoria piena ed è un casino, questa me la lascio comunque, ti faccio sapere lui. Chiami se con Rod, mettelo, perché non ne ho più. Raggio tutti i dadi, la T230 ho venduto, quindi non ci ho manco per vedere. Vabbè, ma con questo lineare la T230 non serviva a niente, perché c'ha 200 watt di strumento, a me mi serve quello con un kilowatt al metro. Vabbè ragazzuoli, io però vi lascio, dai, vi saluto che mi preparo per portare il cane, che sono le 8:15, ok? Un abbraccio a tutti, buon fine domenica, se ci siete ci sentiamo dopo, KK. Eia, eia, no, questi sono fino a 2 kilowatt. Eia, ciao, ciao, siamo qua per adesso. Sì, eia. Io. Che fai? Giocato di sì. Antonio Stefanini, che viene di Ross metro watt metro Daiwa CN520. Ma dove stai guardando? Su Facebook. E cosa hai impostato? No, su Facebook stesso ho scritto Ross metro Daiwa e mi ha dato tutti i cosi. Poi c'è questo che sta vendendo il modello uguale al mio, il 901 HP, e lo sta vendendo 130 euro. Spedizione inclusa, dentro la sua scatola ancora, il suo cavetto ancora piegato di alimentazione, è un buon prezzo. Boh, poi c'è da vedere, ah, come il tuo, dipende se sia più giusto, io ho acceso, quindi non lo vedo. Ma questo è stato già venduto, l'ho visto adesso. È stato già venduto Gap, poi vediamo un po' quest'altro, il V9 sta vendendo un altro, lo stesso 120, un radioamatore vende Rosmet della CN901 HP3, sì, 120 euro più spese di spedizione. Ascolta il messaggio che ti ho mandato. L'alternata, avanti, chi è? Oh, sono qua, dai, il cane lo porta all'aria, che c'è l'aria, sì. Andare, trattuno con l'alternata, ma non penso che eri tu, mica l'importante. Io alternata, non ho già alternata io. No. No, io questa radio le controllo, avevo mille problemi con i microfoni, alla fine mi sono rotto le balle, che cosa ho fatto? Sono andato a Fusaro e mi sono preso un più 4 nuovo e un più 5 nuovo, originale, guarda, questo è originale come mamma l'ha fatto, senza essere modificato e senza niente, perché mi creava problemi, fischiavano, facevano. Le radio principali che usano, il Midland e l'Inuit, mi hanno messo microfoni nuovi, gli altri invece hanno tutti i microfoni usati, vanno bene per carità, però questi facevano un sacco di casino. Vabbè, dipende come sono fatti. Bravo, poi l'ultimo grande, un pareggio, 40 euro usato, 60 euro me li sono comprati tutti e due nuovi, capito? 60 euro uno e 60 euro l'altro, perché il più 5 era 70, mi ha lasciato 60, e il più 4 l'ho preso a prezzo pieno, 60. Ah, già va bene. Pensavo che stavo utilizzando l'altro ampli, capito? Poi ti ho fatto quella domanda, cosa stavo utilizzando. Già va. Ma il winner sta dicendo? Quello che mi hai fatto vedere tu, non sapevo che era quello che stavo utilizzando. Oh, ma questo ce l'ho da poco, mio Tino. C'avevo il B300P, l'ho staccato e l'ho messo dentro l'armadio. Questo quando è che è arrivato? Sarà la settimana scorsa, capito? La settimana scorsa, me l'ha fatto prendere Massimiliano. Ho capito, no, io intendevo un altro, aspetta. Aspetta un attimino, allora, come cavolo è? Allora, aspetta un attimino, io intendevo questo... KL505. Quello non era il mio, quello me l'ha prestato Stefano per provare, che è appunto quello dell'RM Italy, il 505, che ce l'ha anche Gianni, capito? Però quello che avevo io è quello con la ventola, il modello vecchio, chiamato Stefano. Infatti a me è piaciuto e mi ho preso questo modello perché Massimiliano mi ha detto che è superiore, infatti è superiore. A chi ne date 600, qui ce ne date 300 di watt, capito? È diverso, quello non era il mio T. Ma non confondere col 503M. Ehi, quello che ti ho mandato io, la prima foto che ti ho mandato, che ti ho detto che era il mio. No, allora, l'RM Italy, il KL503 è quello che dà 300, mentre invece il 505 è un pochino più superiore, molto più superiore, solo che costa 325 euro in circa. Esatto, quello lì, e questo è una cosa quasi 600, mio Tino, questo costa un sacco di soldi, capito? Quello lì me l'ha prestato Stefano Principe, capito? Perché ce l'aveva nel cofano della macchina e mi ha detto te lo lascio così lo usi, poi magari quando scendo me lo riprendo, ma è farà da voi di 2 mesi e glielo ho restituito. Capito, quello io volevo provare, capito? Prima di acquistarlo. Guarda, io se l'avrei avuto volentieri, quello non era il mio, quello l'ho restituito a Stefano. Quello ce l'ha Stefano e non so neanche se l'ha venduto, perché mi ha detto appunto se me lo prendevo e stavo per prenderlo, poi consultando Massimiliano mi ha detto ascolta, io ho il Winner LA 1000 che lo fa l'RM Italy, è preciso identico, però è molto ma molto superiore a quello lì, costa un pochino di più, però è superiore, e così ho fatto, mi ho messo da parte i soldi e me lo sono preso. Fatto bene, costa 200 euro in più, niente di che, 5, quasi 600 euro costa. Lasciamo perdere, mica mai ci portano 300, neanche li vedo. Sì, non parlare di soldi, perché questo veramente ho fatto un grande sacrificio, vabbè, le cosettine mie poi ce le possiamo dire al telefono, le cose nostre, però ti sto dicendo che lascia perdere che gennaio vedo ammazzarsi per me, tu immaginati che Daria ha lavorato dicembre 15 giorni e adesso lo mattessi, hanno ripreso il 7, sabato e domenica chiusi, adesso domani vabbè riaprono sino alle 6, chissà per quanto, quindi soldi ne stanno entrando ben pochi, quindi lascia perdere, e spese ce n'è un bel. Lascia perdere, penso anche basti la macchina, quindi giustamente c'è da aggiustare, quindi bisogna farlo. Scusa un attimo, devo mandare dei messaggi. Sì, lascia perdere la macchina, nel gioco uscito la mia ambasciata, io. 2 cuffie davanti, cuscinetti e balle, poi va. Lascia perdere, vabbè, allo zoppo ripina. Va bene lo stesso, bombola! E zitta che sopra prendi, Roman Vendi! Allora, stai mangiando, mangia, cazzo, ogni volta ti chiamo lo devi mollare. Mangia Antonio, ci sentiamo dopo, sono qua intanto, dai, che il cane lo sta portando mia figlia che si fa 2 passi. No, ti ho già mangiato. Io non so niente da cucinare. Abbiamo mangiato a pranzo bene e stanotte abbiamo deciso di mangiarci un po' di fainé con qualche pizzetta, basta. E se no troppa carne, troppe cose, dai. Mi piace tanto, ma sono negativo io. Poi il 90 manzano devo abbracciarmi un comodo. Qua è un casino, no. Non fa proprio. Sì, anche a me Antonio, ogni tanto piace a mia moglie, a mia figlia, io ogni tanto la prendo, ma non ci vado matto sinceramente, perché io ho un po' di colite, ho il reflusso gastroesofageo, ho un sacco di problemi, capito? E quindi mi fa male anche a me. A pranzo, figurati, abbiamo fatto un quarto di porcetto con le patate al forno, villaggio ancora, là se fa, immagina già dei due. Sì, lo so. Il mio coso negativo è proprio quello. Mi piace, no, a me mi piace molto. Solo che no, cioè, è un macello perché poi l'indomani mattina la pago. Li pago tutti. È un macello mio, adesso stasera non ha giocato di bannuta. Ho preso una pizza gigante, me ne è avanzata, domani me la scaldo e me la mangio, non mi interessa niente. Sempre loro chiamo perché sono i più veloci, cioè sono i più seri facendo consegne, chiamo sempre a Obelix, già lo sai chi è. Sì, no, ma anche io, mi guarda che non ci buttiamo niente qua, quando prendiamo gigante noi, io la prendo a metro, qua la Oggiano la fa molto buona, e quando avanza la scalda me la mangio in domani, cosa ti la girampa, ma stai scherzando, si lampa nuda. Aspetta tu che metto il collare a Filippo. Vediamo, Monello, è quello. Non si sa chi è più Monello, se è quello di Gianni o Filippo. Se ne vuoi sbaglio il microfono che. Filippo Monellino. Ah, sei bravo Filippo. Sì, ma bravo Baro, non si può portare fuori, è un casino, un disastro, non lo puoi mollare, non lo puoi sguinzagliare perché si chiude agli enti. È cattivo, è diventato un bel cattivo. Birichino, Vabbè magari per da figliati a cigani e fatto un macello. Guarda, Anto, al contrario, i gatti è pieno giù da me, li conosce tutti perché erano piccolini, lo conoscono e sa che non le fa niente, le passa vicino, ai cani grandi si gira, ai cani piccoli no, ci gioca, alle persone che non conosce, capito, alle persone che non conosce le abbaia e se è sguinzagliato di sicuro in alto, quindi non lo possiamo mollare. Aspetta un attimo, sta uscendo. No. Qualcuno qua? Via. Che avanti? Sì, che bravo che sei. Che bravo che sei. Ma fai risentire che non lo sentita bene. Signori, mi devo allontanare, dai, ci sentiamo più tardi, se coincide sono domani. Ciao a tutti. Figati. Ciao, ciao. Nel frattempo ti hanno fatto la bernacchia. Sai cos'è? Che è meglio che la facciano col culo anziché con la bocca, così si può andare anche il pane. Ma questo è tutto. Ciao. E chi è che ha fatto la pernacchia? Mi è arrivata qua. È sempre il solito, Ah, Guido che ci amava e poi faceva la bernacchia. Lasciamo fare il beccio. Chiudendo stai ti. Mi devo lontanare, crack, devo andare a cambiare la bomba adesso, allo scaldino. E poi, a parte il banana che c'è qua, ci stiamo preparando per assaggiare qualcosa, là. Va bene, dai, allora buonasera, buon tutto, ci sentiamo dopo, se coincide, tanto io, allora meno un quarto arrivo là, il mangiare, e poi me ne entro qua perché c'è la partita, c'è la Juve, voglio vedere se ce la fa a vincere anche stasera, e se no ce la bigliellucci, avanti Antu. Aveva partito la Juve, c'è Juventus Sassuolo, il Milan ha vinto, l'Inter ha vinto contro la Roma, cioè ha pareggiato contro la Roma 2-2, e quindi se vince la Juve va a fianco all'Inter, mi sembra un punto di differenza, comunque poi c'è una partita a recuperare anche la Juve, perciò vediamo un po' se si mette in corsa e se no si impicca. Si arrangia. No, a me già non me ne viene niente in tasca. No. Già lo so, già. Ho mai visto a Filippo. Non l'hai mai visto? Non mi ricordo. Non so se ho qualche foto tu. Forse i gatti, perché li ha visti da piccolini, quindi non li fa niente per quello. Non penso che le faccia niente, ma è un bestione, mi fa potrebbe da cuscino. No, perché li protegge, se li vede da piccoli poi. Magari è educato a callare, ma non vuole toccarli agli altri cani, potrebbe anche succedere. Può darsi pure, ma lo conoscono, manco si spostano i gatti, no? Sanno che non le fa niente, mi capito? Sì. Beh, se gli abiti da piccolo non c'è problema. Gappa, sto guardando, c'è qualche foto. Un pomonello. No, non ne ho niente. Non ne ho tutto il radio, tutto. Che sotto le balle. Ma l'avevi vista la sala radio come l'avevo fatta? Dove sono adesso? Ma l'avevo tornata a rimodificare. No, tutta dall'ingresso l'ha fatta la foto, dall'ingresso della porta c'è tutta la parte vintage, no, la base, e poi l'altra base sono gli HF, l'avevi vista? Non mi ricordo. Non me lo ricordo, non so se te l'ho mandato. Qualcosa mi hai mandato, ma non me lo ricordo. Vabbè, lascia vedere, signor Bobo. Ma mi ha mandato quel bestione là, il DAC. Se la radio completa non te l'ho mandato? Mi pare di no. Aspetta, la mando. Ma c'è un po' di casino. Di guerremo in radio, a confronto all'altra, l'altra c'è più di va. Sono arrivato vivo, no, mi aspetta. Vai su la foto, la trovi subito. Questa è fatta dall'ingresso della porta, vedi come è organizzata. Vai dal microfono che vi gioco. E tu mi hai comparato di MB più 4. No, ma due soli ne ho MB più 4, gli altri sono tutti MB più 5. Però è bella, allora mi è venuta bella. Anche perché separate, i baracchini con i baracchini e gli HF con gli HF, capito? MB più 5, Antonio, io ho la stanza apposita. Io ho la stanza solo per fare questo, ho capito? Quindi posso fare quello che voglio. Fissando mi muoio, mi secco di vola. A metà di... La moglie, se va bene o marito, non si coderà mai pure. Ma l'ultimo microfono, che cos'è? Allora, ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. L'ultimo di fondo, che cos'è? Perché è diverso il coso. Come si dice? Dopo si va a parlare. Adesso ti faccio la foto, è della Gain, è un microfono da tavolo della Gain, tipo l'MB più 5, però è collegato al pony, aspetta. Ok, niente, è una mezzo strano. Bert Simpson, Simba. Oui, già. Oui. Claudio, Bert Simpson, Simba, ti interessa? No, già, adesso no. Adesso ne sta arrivando uno che è molto più bello del Simba. Non l'ho trovato io, ma l'ha trovato un amico. E diciamo che è il fratello del Ruiz, dai. Il fratello del Ruiz. Poi quando lo vedi mi dirai se ho ragione. Molto più bello del Simba. Aspetto, quando arriva quello poi vediamo. Perché mi è arrivata una notifica se mi interessava, perché lo stavo cercando e quindi me l'hanno mandato d'ufficio. E ho capito già, ma ho già investito in questa radio, ho capito, che ti ripeto, è più bella del Simba. Te l'ho mandato anche il microfono, guarda, è un microfono delle Game, guarda, è nuovo, originale, ed è attaccato al pony, per non prendere un altro MB più 4, più 5, insomma ce l'avevo, ho attaccato quello che è bellino, è nero, uguale, dai, molto bello. Che suga. È bello, sì. È un po' stile vecchio. Scusa, tu stavo a prendere mia figlia, cosa hai detto? Aspetto che un po' stile vecchio. Sì, beh, stile vintage, attaccato al pony, però è della Again originale, marcato Again, hai visto? Molto bello, visto? C'è lo slider nel piantone, c'è il lock, il PTT e lo slider per sollevare il Mickey Game. Capito già. E quanto te l'hanno offerto? C'è anche il prezzo? 220. 2? 220. Ah, ma non li spendo quei soldi per un scimmio. Io se lo voglio, è che non voglio fare strada, magari andare lì, perché mi ha mandato le foto, sembra bello, poi faccio la fine dell'altro, cazzo, che sono andato ed ero montato nel garage, non ho voglia di mettermi in macchina, andare a Cagliari, io vado in macchina a Cagliari con 20 euro di gasolio, a 150 euro me lo porto a casa già, però mi ha mandato le foto, sembra bello, però non mi convince molto, non ho voglia di stare... troppo, 220 euro non li spendo io per un vintage, è sempre un vintage già, lascia perdere, massimo per un vintage si possono spendere 120-130 euro, ma massimo 150 proprio, ma deve essere una radio bella, bella, bella e anche introvabile, come questa che sta arrivando, questa è introvabile, perché chi ha visto le foto mi ha detto solo dove le stai trovando queste radio, è introvabile, bellissima.